Aziende e imprese varie che competono nel libero mercato di chi dice di credere nel libero mercato ne escogitano una più del diavolo per autovalorizzarsi, nella consapevolezza che la parcella più alta è quella che può essere presentata da chi riesce a sembrare di non averne affatto bisogno. Ogni tratto dei connotati complessivi dunque ha il suo valore. Tutti concorrono all'immagine e questa immagine produce a sua volta ulteriore valore. Una certa nostra pigrizia mentale ci porta spesso a ritenere che tutti i processi di valorizzazione siano di tipo cumulativo, no? Ma ecco, non appena ci si renda conto che il valore nasce dall'aver posto mentalmente un rapporto e che non è questo o quell'elemento in sé per sé che valorizza, si comprende come qualcosa possa venir investita di nuovo valore anche per sottrazione. Vado ad un convegno organizzato da una grande azienda multinazionale in un grande albergo della capitale morale del paese. E già nell'entrare constato la cospicuità del capitale ideologico investitovi. Nel corridoio che porta alla sala congressuale sono sagacemente distribuiti alcuni dirigenti che hanno l'incarico di riconoscere l'ospite e di esibirgli, no, i cosiddetti onori di casa. Entrate, fate i primi passi e da un gruppetto si stacca qualcuno che vi si fa incontro sorridente, vi stringe energicamente la mano, vi ringrazia per aver trovato il tempo di essere dove siete, vi accompagna alla reception. La reception è una sorta di teatro semanticamente sofferente, non può dirsi né una ricezione né un ricevimento, per cui rimane una reception, e questo teatro è interpretato soltanto da corazzieri femmina, e lì avviene l'accreditamento. Compitate il vostro nome, attendete che il corazziere femmina di turno mimi con scrupolo la sequenza di gesti dimostrativa della ricerca del vostro nome in apposito elenco, del riscontro e del sorriso di accreditamento eseguito. E subito dopo vi tocca la cartella del convegno. C'è stato un momento in cui con la cartella stava una penna biro, che da semplice e povera è gradualmente divenuta più ricca e complessa, per esempio di vari colori, per esempio con il marchio della società organizzatrice ben chiaramente impresso, poi è venuto anche il momento del pennarello a punta fine. Bene, con la cartella consegnatami l'altro giorno non c'era alcunché. Non c'era alcunché perché eravamo un passo più in là in quanto a processi di valorizzazione e un passo più in qua in quanto a problemi di spicciola logistica, diciamo così. Una volta in sala ho capito poi la situazione. Lo strumento di scrittura era omaggiato a ciascun partecipante, si trovava già sul ripiano posto innanzi a tutte le poltroncine, ma non poteva essere inserito nelle cartellette. No, perché essendo una matita ne sarebbe facilmente scivolata via. Si trattava di una matita perfettamente temperata, più o meno identica a quella che mi insegnarono a temperare perfettamente in prima elementare nel lontano 1951. Nera, ma con il marchio della società organizzatrice impresso sulla superficie laterale. Il cosiddetto progresso a volte consiste nel tornare indietro, perché se quello del valore diventa un mero problema di distinzione, è possibile che un giorno, allora passando in via Napoleone, che so, in Monte Napoleone o in via del Gesù, all'ora dell'aperitivo e chiedendo al primo venuto di accendervi una sigaretta, costui tiri fuori due pietre focaie. È un caso in cui la funzione dello strumento è elevata al puro livello simbolico. La matita al convegno era una metafora. Stava per il biglietto da visita, stava per la consapevolezza su come vanno le cose al mondo, stava per quel sapere che la società multinazionale in questione ha maturato e mette in vendita. In vendita a caro prezzo, ovviamente. Di un caro che è direttamente proporzionale al prezzo fatto da quelle società che ai loro convegni, nelle loro cartellette, mettono le biro o i pennarelli a punta fine. Va da sé, dunque, che non potendo sciupare la soavità di un simbolo, come tutti i vicini, per prendere appunti, ovviamente poi ho usato la mia di penna. I convegni durano una vita. Per parteciparvi a corpo morto occorre provvedere all'alimentazione, alle funzioni corporali essenziali e possibilmente al mantenimento della propria vita di relazione, quella che è rimasta fuori dal convegno medesimo. Si è dato il caso quindi che ad una certa ora io sia uscito lestamente dalla sala e mi sia aggirato guardingo per i lunghi corridoi del grande albergo dove ero ospitato. Di qui no. No, là no. Proviamo qua dentro. Niente da fare. No. No, no, qui no, qui nemmeno. No, non cercavo la toilette. Cercavo un telefono. Trovo il bar. No, mi dispiace, signore. Cerco anche nella toilette. Guardo di qua e di là mentre due signori mi guardano malissimo. Telefoni non ce n'è. Vado dal portiere dell'albergo, mi scusi, ma non riesco a trovare la cabina telefonica. Infatti non c'è, signore. Telefoni non ce ne sono più. Sono stati tolti tutti. Capisco. Vado al guardaroba, mi riprendo il paletò ed esco dall'albergo in cerca di un telefono. Giro tutto l'isolato. Entro in 4 bar. Ma ovunque ricevo un solo tipo di risposta. Il telefono non c'è. O meglio, il telefono non c'è più, signore. Come nel caso della matita, anche qui è il passo indietro che avvalora. Nell'epoca dei telefoni cellulari incorporati ad ogni essere umano che voglia far parte del consorzio sociale, il grande albergo, come il bar, i locali di pubblico servizio, smantella una funzione prima che faccia danni. Danni di ordine ideologico a quei suoi clienti per i quali il possesso del telefono cellulare è implicito. Dal sito www.episteme.it, un sito di informazione scientifica, trago notizia di un esperimento scientifico che mi sembra il degno complemento di quanto raccontato poc'anzi. In un laboratorio di ricerca, un fisico ha posto su un tavolo due mele ad una distanza di 1,5 metri l'una dall'altra. Ad esse mele ha appoggiato due telefoni cellulari, badando a che le antennine relative toccassero la buccia. Poi, dal primo cellulare ha composto il numero del secondo e allo squillo ha pigiato nel secondo il tasto contrassegnato dal morfema ON. Da quel momento si è aperta una riservatissima comunicazione fra le due mele della durata di 15 minuti. Allo scoccare del tempo previsto, allora, il ricercatore ha pigiato il tasto contrassegnato dal morfema OFF ed è passato ad un paio di verifiche. La prima in ordine alla temperatura. Ed ha constatato che nel punto di contatto delle antennine con le mele la temperatura era superiore di circa 5 gradi centigradi. La seconda verifica in ordine all'osservazione visiva, diciamo così, ed ha constatato che le zone in questione nei due pomi erano diventate color ocra. Il giorno dopo, infine, il ricercatore ha potuto effettuare l'ultima verifica relativa all'esperimento. Le parti delle mele venute a contatto con le antennine, evidenziatesi in cerchi più o meno della grandezza di una moneta da 100 lire, pari a 5 centesimi di euro, avevano assunto un bel colore marrone scuro e il classico aspetto molliccio del marcio che avanza. Lasciandoci immaginare il colore dei neuroni di Berlusconi, il fisico che ha effettuato la ricerca alla faccia delle commissioni scientifiche che nel lungo frattempo indagano, Il fisico riferisce il costo complessivo dell'esperimento. Lire 600, costo di 2000 tipo gold. Lire 3200, costo degli scatti telefonici. Totale lire 3800, pari a 1 euro e 96 centesimi. Centesimi che, a proposito di valori in sottrazione, come ha il coraggio di dire il presidente Ciampi, centesimi che costituiscono la felicità degli italiani, che dal 1 gennaio in avanti si sentiranno felici, allora, come tutti gli altri popoli del mondo, perché la felicità non stava nelle lire, come i materialisti credevano e volevano far credere, ma nei centesimi.